piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. No, c'è una faccia, tu stai mica a capire, sto per perdere la pazienza, eh? Oh! Ma insomma, l'hai capito? Ma te basta le marcianze violenze? Da quando sì, sono salita che ci stai a marcianza? Ma si c'ho 80 anni vengo. Ma cammino, ma vergogno, sto un bassetto brutto e piantala, va! Piantala! C'è via apposta sulla circolare! Sulla circolare per marciaccio, quanto sei brutto! Oh, ma dico, non si vergogna? Ma cosa vuole? Ma come si permette? Io sono un padre di famiglia, sono uno che lavora! Ma lavoro, mi tocca ma chi è che la tocca? Ma chi la conosce? Viene qui a tampinarmi! Ma vada via, va! Oggi è una trasmissione dall'alto valore scientifico, dal punto di vista della necessità di mettere a punto un dato statistico. In questi giorni avete notato, aspettate che silenzio il mio telefono, proprio adesso non mandare messaggi, in questi giorni avete notato senz'altro che si parla moltissimo di violenza sessuale, se ne parla soprattutto riguardo il dorato mondo dello spettacolo, lo scandalo Weinstein, da Asia Argento tutta una serie di attrici avrebbe subito innominabili violenze da parte del grande boss dei produttori. Se ne parla nel campo della moda, il fotografo delle star Terry Richardson, bandito da tutti i magazine, perché anche lui farebbe grandi e terribili e innominabili molestie nei confronti delle povere modelle. Ma nessuno parla delle piccole molestie sessuali che tutte le donne comuni ogni giorno devono subire. Molte volte anche in silenzio, avete sentito, due film, una romana palpeggiata sul tram in un film di Grigoretti del 1960, Mariangela Melato nel film La poliziotta, vai in autobus tranquilla, c'è la persona ti si attacca, ti si struscia, ti tocca, ti sposti, lui si sposta anche lui, provi a dire qualcosa, cade dalle nuvole, chi ti credi d'essere, via dicendo. Beh, oggi vi abbiamo dato un quadro tecnico per poter inquadrare quelle che sono le violenze, le molestie detestabili, vischiose, untuose, schifose, soprattutto indenunciabili, perché cascano tutte dalle nuvole, che normalmente tutte le donne normali, le nostre sorelle, le nostre madri, le nostre mogli, le nostre fidanzate, le nostre amanti, le nostre colleghe, subiscono quotidianamente, devono stare zitte. Beh, oggi noi invece le classifichiamo. Io davanti l'elenco, abbiamo messo insieme, facendo una sorta di test velocissimo ma su un campione consistente, le 12 categorie del porcone. Il porcone medio, quello che passa sempre impunito, che non ha personaggi titolati che lo denunciano, che comunque vive una sua vita normale, anche lui ha moglie, ha figli, magari pensano sia una brava persona, ma è il collega che vi trovate vicino, è la persona che incontrate nell'autobus, è l'amico di famiglia. Beh, il porcone oggi deve essere denunciato, soprattutto dobbiamo classificare quelle che sono le categorie attraverso cui si manifesta. Le 12 categorie del porcone ve le farò sentire tutte assieme, poi le dettaglierò l'una per una. Voi dovrete darmi esattamente la vostra testimonianza di quanto avete avuto modo, testimonianza, occasione di trovarvi in contatto con una di queste categorie. Chiamate subito all'800 24 0024, eccole. Tipologie del porcone: il manomortista, lo strusciatore, lo strizzatore, l'impuntatore, lo sbavone, lo spigolatore, sottobracciatore, il piedinatore, il ginocchista, l'annusatore, il ravanatore, il pacchista. Non sospettavate che fosse stato possibile a qualcuno mettere assieme, studiare, classificare, fare il database delle 12 categorie del porcone? Beh, noi l'abbiamo fatto. È stato faticoso, il nostro staff ha lavorato, è stato duro raccogliere testimonianze, ma sono 12 categorie scientificamente provate, valutate. Adesso dobbiamo soltanto dare i numeri, capire in quante di queste categorie voi avete avuto modo di trovarvi a contatto o qualcuno ve l'ha raccontato. Donne, questa è la vostra giornata. Donne qualunque, donne che in questo momento state buttando dentro il soffritto, che non vi chiamate da Asia Argento, non vi chiamate con nomi titolati delle modelle di New York, che possono denunciare, hanno le pagine dei giornali, voi non le avrete, avete soltanto questa occasione di grande riscossa. Adesso vi elenco l'una per una le categorie e ve le spiego, così avete anche modo di capire bene, di portare alla memoria i ricordi che magari voi avete rimosso. Iniziamo con la categoria numero uno delle categorie del porcone, la numero uno: il manomortista. Allora, il manomortista, lo dice la parola stessa, ci stiamo avvicinando gradualmente, pezzo per pezzo, al 2 novembre. Cominciamo dalla mano. La mano morta è quella mano che rimane un po' moscetta, sta un po' lato gamba. Il mano mortista vi dà la toccatina, fa finta di niente. Il mano mortista molte volte potete anche non conoscerlo, è anche uno sconosciuto. E avete voi il dubbio, mentre la sua mano ha colpito le vostre zone più sensibili, che magari si è sbagliato, magari in qualche maniera è stato un vostro errore. Mai voi provaste a dire ma cosa fai con questa mano? La reazione è esattamente quella che avete sentito con Mariangela Melato e Anna Magnani. S'arrabbia, cade alle nuvole. La mano morta è una sorta di mano staccata dal corpo. È qualcosa che lui sembra non controllare. Sì, perché è la parte lubrica, è la parte viscida della sua personalità che vi appiccica addosso. Categoria numero 2. Lo strusciatore. Lo strusciatore agisce soprattutto nei luoghi promiscui, ma può anche agire in luoghi familiari, in luoghi di lavoro. Lo strusciatore nel luogo promiscuo, quindi diciamo nella ressa di un autobus, è quello che si attacca con la mano destra o la mano sinistra al corrimano in alto. Voi siete appoggiate a un sedile pieno di borse della spesa con i bambini, lentamente vi si avvicina. Casualmente nella frenata l'autobus lo trovate addosso, dice, beh, sarà la frenata, ma quando l'autobus riprende la sua corsa non si sposta e sentite il suo contatto e lo sentite insistente e sentite anche delle mutazioni, le trasformazioni, delle metamorfosi e capite che quello strusciamento non è casuale. Cosa fate? Non lo so. Terza categoria. Lo strizzatore. Allora, lo strizzatore agisce in maniera subdola. È quello che vi conosce, è un amico, è un collega, è il tipico toccone d'ufficio, però lo strizzatore ha un suo livello di attenzione molto mirato, molto preciso. Lui va dritto allo scopo. Lo strizzatore magari vi fa, che ne so, popi popi e vi dà la strizzatina alle tette. E voi non sapete che fare, come un amico, un collega, gli dà uno schiaffo, gli dà un calcio. Rimanete confuse, intorno tutti ridono, vi sentite bullizzate, intanto vi ha toccato le tette. E poi lo farà continuamente, lo farà davanti alla macchina delle fotocopie. Provate a parlare con una collega, la collega dice lo fa anche con me, che vuoi farci? È protetto dal capo, o magari è un capo anche lui. Cosa fate contro lo strizzatore? Non lo so. Quarta categoria. L'impuntatore. Allora, l'impuntatore potrebbe sembrare vicino allo strusciatore. L'impuntatore ha proprio uno scopo preciso, non è un uomo, è un puntello. La categoria umana, la forma fisica di quest'uomo è racchiusa soltanto in quella distanza variabile che può andare dai 5 ai 15 centimetri della media mondiale di viridità che vi mette addosso. L'impuntatore vi colpisce anche nel luogo di lavoro, anche in un luogo familiare, un amico di famiglia. Insomma, non sentite più l'uomo, non sentite più la persona, sentite soltanto quel puntello. È un puntello che vi tormenta. Come liberarvi da questo puntello? Quinta categoria. Lo sbavone. Ecco, lo sbavone in realtà è probabilmente forse la più inoffensiva delle categorie, perché non c'è proprio una vera e propria molestia legata agli apparati sessuali, però c'è la salivazione che è fastidiosa. Lo sbavone vi lascia delle tracce di saliva, non sa bene come faccia, o vi parla vicino e vi sputazza addosso, è lo sputazzatore, però lo fa perché non riesce a controllare la sua esagerata salivazione. O chiamate 80024 0024, io ne ho 12, sono arrivato al 5, sto finendo la voce, poi vado avanti. Lo sbavone vi leccheggia, vi bacia la mano per fare il galante, vi lascia una striscia da lumaca sulla mano, vi bacia la guancia, vi lascia lo sputazzo attaccato alla guancia. Insomma, di lui sentite soltanto la saliva, un emanatore di saliva. Oh, finalmente, Roberta, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Posso testimoniare due cose successe qualche anno fa, perché ho 50 anni, sono successe quando avevo 20 anni. No, vediamo di queste categorie che ho elencato. La prima è sull'autobus, quindi è lo strusciatore. È uno strusciatore, Allora, allora, questo autobus era di quelli antichi in cui entravi e c'erano tre posti messi praticamente davanti, un po' alti, quindi all'altezza poi della cintura di chi entrava. Quindi erano perfettamente studiati, perché all'altezza di circa, sì, è stato calcolato scientificamente, di un metro e 0,7 centimetri, dove nella media italiana più o meno, si colloca la virilità maschile. No, sto leggendo il testo. La virilità maschile della media italiana si colloca a 1,7 metri. Quindi erano stati studiati in maniera lubrica e colpevole dai progettatori di autobus, perché uno strusciatore potesse avere agio di arrivare dove? A quale parte anatomica della donna? Beh, insomma, seduti in quel modo avevamo le ginocchia sulla parte davanti della persona. Quindi quando l'autobus era pieno le persone si appoggiavano, però nel mio caso era un frate. Senso, questo frate aveva una mano dentro la tasca e io ho sentito perfettamente che da sotto la tonaca lui mi accarezzava le gambe. Allora, vediamo, diciamo... vediamo, dunque, allora, io ho davanti il prontuario. Questa si chiama molestia fallorotulea, perché la cosa maschile viene appoggiata alla rotula. In questo caso il frate classificato, vedi, rientra, è il frate Favarone, si chiama così. Ha una tonaca particolarmente adatta, perché lui entra in quella tasca sotto il, esatto, il rosario, che è tutto aperto, sì, sotto non ha nulla, sì, naturalmente, e lì maneggia, diciamo, la sua verga lussuriosa, orientandola appunto nel contatto fallo-rotulea. Quindi è da manuale, guarda. Sì. E poi la seconda invece? La seconda invece, io e una mia carissima amica, sempre più o meno in quell'età, andavamo in giro a fare gli annunci per fare le modelle, le fotomodelle, quelle cose che si fanno a 20 anni. Certo, giusto. E siamo capitati dalle parti di fronte alla Fiera di Roma, per intenderci, sì, dove c'era un sottoscala dove questo tizio riceveva le ragazze e aveva fatto delle inserzioni per la lingerie. Un Weinstein dei poveri, diciamo, che lavorava, esatto, in zona, esatto, euro di Roma, sì. Esatto, quindi si andava lì e si scendeva questo sottoscala, lui ti faceva spogliare per vedere se eri adatta praticamente a fare la lingerie, però e poi cosa faceva? Aspetta, voi vi siete ignudate, te e la tua amica? Ci siamo messe in reggiseno e poi mutande. Lui no, questo va detto. No, dunque lui ci ha dato appuntamento divise, prima ci ha visto insieme, poi ci ha richiamato una per volta, e forse per fare qualcosa in più, non lo so. Comunque, certo, fatto sta che quando sono andata io, lui si è avvicinato e comunque con la scusa di dire per vedere se era un seno adatto a un certo tipo di reggiseno, mi ha palpato il seno. Quindi strizzatore, direi. Sì, la cosa non è finita, cioè, io ho detto che sono stata, ero accompagnata, per cui non ha continuato. La mia amica ha ricevuto dalla polizia dell'EUR un contatto in cui doveva testimoniare, perché aveva con altre persone si era spinto un po' oltre, quindi è stato poi denunciato, lei è stata chiamata. Ma con la tua amica che tipo di molestia ha avuta delle 5 che abbiamo elencato? Beh, la stessa cosa, sempre, gli ha sempre palpato praticamente uno strizzatore, due strizzatori, esatto, sì, uno strizzatore. Però insomma a quell'età è sempre tutto molto, noi non abbiamo fatto denuncia perché eravamo insomma un no, po' lo sai così. Perché è importante, Roberta? Perché lo strizzatore, sì, al di là fra le tante che stiamo elencando, diciamo, si prende uno spazio quasi lecito, quasi autorizzato. Sì. Lo strizzatore non potrebbe essere uno che incontri dell'autobus e ti strizza, perché in quel caso è un manomortista. Lo strizzatore, sì, ha il tuo consenso, è in qualche maniera, sì, giustificato. Dico, è il collega, sì, d'ufficio che scherza, ti fa popi popi e tu dovresti ridere. Oppure, beh, quello che con la scusa potrebbe essere anche un medico, sai? Sai quanti, certo, medici si millantano necessità di fare palpazioni non necessarie? Ce ne sono, sì, un'infinità di denunce, questo. Sì, in questo caso, lo strizzatore vuol dire, fammi vedere se funzioni, sì, bene per fare la foto e te l'ha strizzata. Sì, sì. Comunque volevo dire una cosa, se posso, rispetto alla sergento, non so se posso. Sì, sì, sì, sì. Io l'ho conosciuta tanti anni fa, è una ragazza molto spontanea e molto così, anche con gli uomini, molto cameratesca, cioè questa cosa che gli è successa, che gli hanno dato molto addosso, cioè, sì, ma non è giusto, approvo, non è assolutamente, giusto. Non anche approvo se assolutamente, onestamente, perché lei è una ragazza, giusto, molto solare. Ma solare, però anche se onestamente l'essere spontanea, la pompa va oltre l'essere spontanea con gli amici. Comunque va bene, dai. Diana, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. A me è accaduto un episodio circa 5 anni fa. Quale categoria? Perché ce ne sono altre 7. Mia mamma mi verrebbe creare la categoria viscidone. Credo fermo. Cosa dimmi, poi dopo leggiamo la categoria. Come no, funziona? Avrei creato la categoria viscidone, però è generica e racchiude un po' quelle che avete elencato. Credo che sia più strizzatore, diciamo. La situazione era questa, lavoravo da studentessa in una panineria, mm-hmm, di notte, finivo la mattina alle 6, di notte sono passate delle persone che conoscevo, degli amici, mi hanno detto guarda, noi facciamo una festa a casa mia, vieni dopo quando hai finito, perché facciamo, come si chiama, l'after. Sono andata lì, ci siamo fatti, abbiamo bevuto qualcosa, ormai non alcol perché in quell'ora della mattina non ce la facevo neanche. E c'era una piscinetta, abbiamo cercato, scherzato, poi ci siamo tutti addormentati sul prato. Aspettare l'alba. Ad aspettare, l'alba c'era già, in realtà ci siamo addormentati per stanchezza. E c'è stato un momento quando io sono andata in bagno nella casa del ragazzo che conoscevo, un suo amico mi ha seguita, mi ha aspettato fuori per farmi capire che voleva flirtare con me. Io sono uscita subito fuori dalla casa per fargli capire che non ho nessuna intenzione che vada nel, certo, suo stesso senso, e siamo andati fuori. Però si continuava a scherzare, questo ragazzo non era una persona, insomma, mi sembrava un ragazzo simpatico, sì, abbastanza carino, magari ci si conosce. Eravamo lì seduti tutti insieme sullo sdraio, si scherza un attimo con, sì, ti faccio un massaggino, non ho un massaggino. Dopo però ho capito che non mi interessava assolutamente fare niente, quindi mi sono allontanata Sì, ma descrive la molestia, perché devo classificarla. Quando mi sono svegliata, sì, c'era questo ragazzo vinghiato a me, era dietro di me, e la sua mano era all'interno delle mie mutandine. Dentro mi le mutandine? Subito... Beh, questa è abbastanza... Io direi, aspetta, ti dico, mi favorite la numero 11? La numero 11... Il ravanatore. Io direi che è un ravanatore, perché è in realtà lui ravanava, quindi è un ravanatore. Sì. Il ravanamento, chiaramente, la tua è una, diciamo, una circostanza molto poco studiata, perché può evitare il tuo momento di sonno. Diciamo, il ravanatore in fase REM è raro, perché di solito usano delle sostanze per portarti in questo stato di stordimento. Qui tu hai avuto un caso abbastanza raro di un ravanatore che si approfitta del tuo sogno. Quindi diciamo che è la numero 11. Tu è un ravanatore. Però questa posso dire una cosa, questa non rientra nelle categorie del porcone, questa è una violenza sessuale vera e propria, da denuncia. La mano nelle mutande è da denuncia, è proprio da denuncia vera e propria, questa è una violenza sessuale. Tu potevi benissimo denunciarlo. Questo veramente era proprio uno stronzo a livelli eccelsi, non è il porcone. Che è difficile, perché poi gliel'ho fatto presente, gli ho detto: ma cosa stai facendo? Non puoi fare una cosa così, non hai il mio consenso, non ti ho fatto capire che è mia intenzione andare avanti in questo modo. L'ho allontanato, poi ci siamo riaddormentati. Poi scusa, mettere la mano nelle mutande a una donna che dorme è come farla a un cadavere, è necrofilia pura. Anche secondo me. Certo. È bello che è riaccaduto, dopo che mi sono riaddormentata mi sono risvegliata allo stesso modo. Sì, beh, anche te potevi andare a dormire un po' più là, perché scusa, dopo la prima volta rimettersi vicino a un ravanatore compulsivo con istinto criminale. Infatti, fermiamoci un attimo. Comunque, Diana, è stato utilissimo. 800240024, ne abbiamo elencate 6, le ricordo: mano mortista, strusciatore, strizzatore, impuntatore, sbavone e ravanatore. Il mano mortista, lo strusciatore, lo strizzatore, l'impuntatore, lo sbavone, lo spigolatore, sottobracciatore, il piedinatore, il ginocchista, l'annusatore, il ravanatore, il pacchista. 800240024, questa mattina stiamo classificando i Weinstein dei poveri. Vedete, sono classificabili in tante categorie, 12 abbiamo trovate. Abbiamo trovato per ora dei punteggi molto alti sullo strizzatore, lo strusciatore e anche il ravanatore sta salendo. Ve ne faccio ascoltare altri due. Allora, la numero 6. Lo spigolatore. Allora, lo spigolatore ama il gioco d'angolo. Esiste in due categorie. Lo spigolatore è quello che vi mette a spigolo, vi mette con le spalle al muro in un angolo, in un ascensore, ad esempio, in una scala. Oppure lo spigolatore è quello che vi estorce uno spigolo alle vostre labbra. Date un bacio sulla guancia, lo spigolatore si sposta velocemente e riesce a cogliere, a sfiorare con lo spigolo della sua bocca o con le sue labbra tumide, schifose, sbavanti, lo spigolo della vostra bocca. Quindi lo spigolatore agisce su due campi. La numero 7. Sottobracciatore. Il sottobracciatore è uno dei più infidi. Il sottobracciatore è quello che vi prende sotto braccio. E voi dite, vabbè, prende sotto braccio, è un gesto galante. Sì, però con il suo gomito vi struscia la tetta. Si becca una strusciata e non potete dire niente. Può essere il terreno impervio, possono essere i sanpietrini, la salita delle scale. È terribile, non riuscite a toglierlo di torno finché non finisce il suo accompagnamento galante. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è capitato? Avevo 10 anni, dovevo operarmi di tonsillite, sì. Quindi questo ricordo però è emerso pochi anni fa, 7-8 anni dopo, cioè parecchi anni dopo, diciamo. E poi mi è venuto in mente che prendevo una figura di uomo col camice verde, io ricordo che ero seduta sulle gambe di un altro, non so come fosse possibile, ma erano due che mi accompagnavano al piano dell'intervento. E mi sono sentita questa mano sopra le mutandine che mi toccava, che strusciava. Ecco, in questo caso... Io, la trasmissione ha un senso un po' scherzoso, anche se la materia è schifosa, sono le molestie. Purtroppo, sì. Questa va oltre, questo è un pedofilo che in realtà fa una violenza sessuale a una bambina, è terribile. Comunque, se volessimo dirlo, è un ravanatore, sono quelli che poi vanno al punto. Mi scrive un'altra persona tramite WhatsApp, mi dice che le è accaduta a 19 anni, un ginecologo porcone, che in realtà la visita... Lei si era resa conto che era particolarmente accurata e particolarmente sbavata. Quindi il ravanatore rientra, è quello che infatti l'ho messa a numero 11, è quella che rientra proprio ormai nell'ambito della violenza sessuale vera e propria. Poi se fatta su una minorenne è un atto criminale. Laura. Laura. Buongiorno. Lei a cosa è capitato? Ma io volevo raccontare raccontare appunto che negli anni queste cose purtroppo rimangono inalterate. Sì, ma voglio un numero, scusi, ci serve proprio il dato scientifico. Quale tipo di molestia rispetto a quelle che abbiamo elencato a lei è capitato? Allora, io ne ho due. Allora, lo strusciatore sugli autobus, sì. E lo spigolatore. Allora, lo spigolatore diciamo che è quella che fa un po' più ridere, perché avevamo noi un professore che seguiva le tesi di laurea che diciamo nelle occasioni o di Natale o di altri auguri tendeva a sbagliare mira, e purtroppo questo era insomma un po' un problema. Cioè mirava lo spigolo della bocca, trovate le labbra. Sì, mirava... E mi ricordo che insomma questa cosa finì nel momento in cui gli fu detto: professore, prenda bene la mira, sennò la prossima volta vola il ceffone. Sì, in quel caso a turno trovate una di voi che ha l'herpes, capita di solito, e mandate avanti quella, così si becca anche l'herpes. No, ma questa è una cosa, io sono vecchio, ho 54 anni. Vabbè, ancora, che vuol dire? 54 vabbè, anni? Insomma, comunque questa avercene. Cosa qui accadeva all'università. E quello invece che riguarda lo strusciatore, sì, sugli autobus, che è un classico, la cosa veramente brutta è che si concentrano spesso proprio sulle ragazzine, come è successo a me. Che sono quelle più indifese, chiaro. Ecco, e io sono costretta a dire questa cosa a mia figlia, che ne ha 15. Vabbè, sua figlia saprà benissimo a 15 anni. Che esistono queste persone. Esatto, però la cosa brutta è che quando ti capita e a 15 anni o a 16 non ci pensi, l'effetto che ha su di te è di farti sentire veramente sporca. Purtroppo è l'effetto di ogni vittima di molestia. L'aspetto schifoso di ogni molestatore, anche un porcone rispetto a uno stupratore, è quello che tu rimani bloccata, schiava del tuo senso di colpa. Dici: che avrò fatto io? Laura ha parlato, Sandra. Buongiorno. Quale categoria? Ah, porcone assoluto. Sì, ma qua va, porcone, mica siamo generici. Manomortista, strusciatore, strizzatore, impuntatore. Strusciatore. In quale location? Autobus sempre? No, assolutamente, in un ufficio. Strusciatore, qual è, diciamo, nella topografia dell'ufficio, il luogo dello struscio? Emilia Romagna. No, nel senso, nel corridoio, nella sala riunioni. Nel suo ufficio. E come avviene il contatto? Allora, avviene il contatto che io dovevo prendere un patentino da consulente, sì. E non ero capace di fare questo lavoro, e andai da questa persona, che era un pezzo da 90 della zona, per imparare il lavoro. E quindi? E quindi questo cominciò a spiegarmi il lavoro all'inizio, e mi disse qualche volta: vieni sulle mie ginocchia, vieni qui che facciamo meglio. Dissi: no, guardi, la mia sedia è comoda, io non ho bisogno di spostare. Ah, questo è il problema, diciamo, il ginocchista non l'avevamo messo. Sì, cioè... ecco, proprio qui, vieni sulle mie ginocchia. Aspetti una, ferma un attimo, numero 9. Il piedinatore. No, 9, no, dopo, quello dopo. Il ginocchista. Ecco, il ginocchista, ce l'avevamo, era il numero 9. Il ginocchista agisce in due casi. Il suo caso chiede diciamo una sorta di seduta sulle ginocchia. Diciamo, che lavoriamo meglio. Diciamo che è una simulazione, un simulacro di smorzacandela vestiti. È questo, esatto. Che chiede. Esatto, è qui, va detta le cose. Ma lo dice il testo tecnico. Oppure il ginocchiatore è quello che al cinema, o se è seduto in una sedia vicino a voi, con il ginocchio cerca un contatto rotuleo con il vostro ginocchio. Sì, ma non è finita lì. Ah, certo. Il tipo mi ha fatto capire che avrei preso questo patentino senza fare dei grossi esami, dei grossi studi, ma che naturalmente con un pezzo da 90 della zona mi avrebbe dato il compito scodellato, cioè copiato. E in cambio cosa, che è una prestazione sessuale? Non avevo ancora chiesto nulla. E siamo andati bar a prendere un caffè con questo pezzo da 90 della zona, lui: sei carina qua, ma niente, tutto molto morbido, molto così velato. Nemmeno, non so, un sottobracciatore, no? Assolutamente, finché un giorno, non ne poteva più, mi ha fermato nel corridoio appoggiandomi le mani attorno alla testa, una da una parte, una dall'altra, bloccandomi. Guardi, se permette, è uno spigolatore, perché l'immobilizzamento corrisponde allo spigolatore, l'aveva spigolata. E adesso, e dopo, cosa voleva fare? Dopo gli ho dato un calcio in zone sue, ho aperto la porta, sono scappata. Sì. Ho detto: io non mi svendo per un posto di lavoro, non mi svendo per niente. sono stata perseguitata da lui. Vabbè, questo qua, scusi, a me interessa la prima parte, è giusto, è importante il suo racconto. Lei è incappata in uno spigolatore, mi sembra chiarissimo. Marina, buongiorno. Categoria spigolatore. Spigolatore, ecco, sta emergendo lo spigolatore. Mi dica la, diciamo, la circostanza, che è importante. Volevo cantare e sì, andai in parrocchia per chiedere di cantare nel coro della parrocchia. Sì. Venni convocata dal parroco alle 2 di pomeriggio di sabato per fare due chiacchiere e capire quelli che potevano essere gli appuntamenti o le modalità. E quando mi presentai, venni praticamente messa all'angolo. Spigolatore, quindi spigolatore. Da questo parroco che mi ha baciata, ha tentato di baciarmi. Allora ci mettiamo anche, ci possiamo mettere uno sbavone, direi. Sì. Anche un altro spigolatore, nel senso doppio spigolatore, perché in quanto cercare di colpire lo spigolo della sua bocca. Scusi, però lei ha colpito un'altra categoria, già rappresentata dalla signora prima del frate, è il sottocampo del previterattuso. Il previterattuso, diciamo, è quando il porcone veste un abito talare. Quindi abbiamo due casi di previterattuso, e sono uno spigolatore e uno strusciatore, molto utile. Se posso dire una cosa, Gianluca, io mi ricordo di essere scappata, ma mi ricordo anche la sensazione che provai. Beh, me lo posso immaginare. Sì. La prima domanda fu: che cosa ho fatto perché lui si comporta così? Il prete mette senza di colpa. E mi ci volle un po' di tempo per capire che non avevo fatto nulla io, era proprio un maiale lui. Previterattuso, guardi, è classificato, cioè il nostro staff di tecnici aveva già pensato questa categoria, previterattuso, un previterattuso spigolatore, doppiamente spigolatore. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Il piedinatore. 800240024, vi dettaglio le ultime categorie delle 12 che abbiamo identificato del Weinstein dei poveri, il porcone. Il piedinatore è quello che fa piedino, ma finora nessuno mi ha annunciato il piedino, abbiamo visto una deriva, stanno cambiando le maniere di molestare. Finora vince lo strusciatore, soprattutto, seguito dallo spigolatore e dallo strizzatore. Buono anche il ravanatore e il ginocchista. Avanti. L'annusatore. L'annusatore è quello che cerca un contatto intimo con la scusa di fammi sentire che profumo hai. Hai un buonissimo profumo. Intanto vi ficca naso, bocca e orecchie nel vostro collo, pensando che voi vi attizzaste come matte se solo vi sfiora con le labbra. Vi dà un'annusata e magari una leccata. Il pacchista. Ecco, il pacchista è molto ambiguo, perché il pacchista va in due maniere si presenta. Il pacchista è quello che vi dà una pacca. Dalla pacca è un po' come lo strizzatore, fa finta che è uno scherzo, un gioco, che bella, tac, è una pacca nel culo. Oppure il pacchista è quello che, e qua entriamo nell'ambito della molestia vera e propria, o prende la sua mano e ostenta la propria presenza, diciamo sessuale, in maniera molto espliscita, o vi prende la mano e ve la mette proprio sul pacco. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Io potrei metterli un po' in varie categorie. Vediamo se proprio io come devo dare un allora, punteggio. Allora, diciamo il piedinatore. Quando l'ha nominato mi è venuto in mente perché è successo che ero piccola e ero con mia mamma, pedinava mia mamma più che altro. E io non potevo in questo sopportare caso, questa cosa. La scienza stessa dice è la cosiddetta legge della maniglia. Prima la mamma e poi la figlia. In questo caso ecco. Okay. Ci ho studiato su queste cose. Avanti, andiamo avanti. Comunque io non ci potevo pensare, perché non potevo credere che si permettesse davanti a me di seguirci fino a casa. Diciamo abbiamo fatto un tratto di quasi 30 chilometri, prima a piedi, con la macchina, e poi diciamo ha preso la macchina e ci ha seguite. Siccome ho poco tempo, andiamo avanti, seconda categoria. Poi altro, ero ragazza, quindi vabbè, gli esibizionisti, ok. Anche diciamo, è il pacchista. L'esibizionista è un pacchista. È un pacchista che apre e motiva. Esatto, e quelli, vari episodi, non ultimo, uno recente. È un pacchista, un alunno, va bene. Beh, c'è una disputa fra diciamo, il comitato scientifico. Per me l'esibizionista è un pacchista che aumenta, estremizza il pacchismo. avanti. Certo, tutte le età anche certo, lì. Certo. Poi da ragazza, non so, salendo sulla cabinovia, che una volta c'erano quelle cabine per certo, andare sì. con gli sci, toglievi gli sci e salivi su quella cabina esterna, diciamo. Per aiutarmi a salire, la mano è mortista, un mano mortista, mano mortista. Sull'autobus, eccetera, sì. eccetera. Va bene, diciamo, ho un bel cotello, lasciamola passate tutte. Grazie. Stefania ha detto Elisa. Elisa. Buongiorno. Niente, io non so se si possa classificare in alcuna di quelle categorie, della verità. Descriva la molestia e poi vediamo se c'è. Perché è un po' strana come cosa. Mi succedeva 20 anni fa, quando ero ragazza, e molto timida. Sì. Magari conoscevo un ragazzo carino, sì. mi è successo 3 volte. Sì. E mi invitava fuori a bere un caffè, sì. qualcosa. Io accettavo. E poi solo per il fatto appunto di sì. avermi offerto qualcosa o sì. essere andati a fare 2 passi, sì. si sentiva in diritto di baciare, toccare. E io ero piuttosto timida, in un imbarazzo totale, e facevo molta fatica a rifiutare. Allora guardi, scusi, io direi, io elenco i nomi, dica qual è più vicino. L'impuntatore la impuntava, nel senso sentiva un contatto fisico pressante? Cioè proprio mi mettevo la lingua in bocca, insomma. Sì, ma si appoggiava, diciamo, con la sua virilità addosso a lei? Ma, no, quello non... Allora, non è un impuntatore? No. Ma io direi, allora guardi, è uno sbavone sicuramente. Ecco, magari, quello sì. Anche uno strizzatore, forse, se le tocca. Sì, anche. Strizzatore, sì. E anche un pacchista, forse. Ma un po' tutto insieme. Vabbè. Solo che era difficile in quel momento per... Della confusione, per comunque ci ha dato già gli elementi necessari per la nostra indagine statistica. Le sono molto grato. Anna. Buongiorno. Io direi che se lei mi aiuta vorrei trovare un termine anche per... Descriva la molestia, l'uomo... io ho davanti diciamo il prontuario. L'uomo con l'impermeabile, se lo ricorda? Sì, è un pacchista estremo, l'abbiamo detto. No, è quello lì che va, si siede al cinema, che si mette di fianco... Ginocchista. Va molto avanti. Allora pacchista. Allora il ginocchista quando va avanti... Ha fatto il finale proprio a sorpresa, pacchista, cioè, veramente pacchista, terribile. Pacchista. Quindi, con eruzione. Io volevo dirvi, allora, su questo argomento di questi molestatori bisogna essere intransigenti, ovviamente, non si può assolutamente. Siccome però io ho 50 anni e per 20 anni ho fatto la modella professionista, sì. volevo attaccarmi un attimo al discorso di prima, di quando si fanno queste attività. È chiaro che massimo rispetto per le donne che per cercarsi un lavoro si trovano. Sì, però guardi, adesso scusi, ho capito, ma noi stiamo parlando di violenze su persone comuni, normali, non in ambienti. Però prima ha parlato una ragazza che ha parlato di un casting di biancheria intima. Eh sì, però non è che si deve fare toccare le tette se fa il casting di biancheria intima. Però non deve neanche andare agli appuntamenti alle ore 21. Sì, vabbè, quelli sono fatti loro. Io sto classificando, io sono privo di ogni pregiudizio. Elena. Pronto, buongiorno, ciao a tutti. Gli ultimi numeri, poi chiudiamo e diamo il risultato finale. Sì, allora niente, praticamente io creerei una nuova categoria, sì. il video amatore, perché mi stavo frequentando con un ragazzo e all'inizio c'era già una certa intimità. No, ma noi solo se c'è contatto fisico, se no quello è un altro sì, tipo sì. di mole. Però mi sono trovata un cellulare puntato con un video. Quindi creerei un'altra categoria, il video amatore. Io direi che è la versione virtuale dell'impuntatore. Invece che impuntarsi, impunta la protesi, il succedaneo, l'allucinazione, la sua virilità, che è il cellulare. Beh, vince strusciatore, seguito da spigolatore, ravanatore, pacchista in avanzo, mano mortista in calo. Il sottobracciatore non è stato classificato, non usa più. Alla prossima.